Prova, prova. Ecco gli obiettivi per questa lezione. Riconoscere le commas, saperle utilizzare e bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.